Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ci fece entrare in casa la moglie, una signora garbata e silenziosa. Per le stanze trotterellava un cosino di 2 o 3 anni, riccioluto come suo papà. Seduto su un divano, ci aspettava lui, Lucio Battisti. Sono Fiorenza, vivo a Villa Guardia, ho 54 anni e sono una commerciante. Che figata! Con la partecipazione straordinaria di Silvia, che si è fatta portavoce di tutti gli studenti della scuola Holden che sono oggi in visita qui a Radio 24, o meglio in visita a voi siete qui più che a Radio 24, cominciamo questa puntata, sono le 16:09, buongiorno a tutti, questo è Voi siete qui, il programma in cui ogni giorno si racconta una storia diversa. Questa è una puntata dedicata a tutti gli amanti perversi della musica leggera italiana. Innanzitutto Tiziano Bonini ha fatto una cosa che non fa mai, e credo sia dall'83 che non mettiamo 2 brani italiani di fila. Forse non l'abbiamo mai messi 2 brani italiani di fila. Fa così con la bocca, come dire, ma no, non dire così che sembra che facciamo gli snob. E invece oggi è una puntata quasi totalmente monografica. Oggi in sostanza parliamo del più grande musicista e cantante lo sto facendo fuori dal vaso, lo so, però lo dico, il più grande musicista italiano per quanto riguarda la musica leggera, e cioè Lucio Battisti. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms. C'è un profilo Facebook e un profilo Twitter, ovviamente, che sono Voi siete qui Radio 24 e Voi siete qui R24. Oggi è proprio semplice, è venerdì pomeriggio, state probabilmente in auto tornando a casa o state tornando dalla scuola con vostro figlio, qualsiasi cosa stiate facendo, fatemi venire in mente la prima canzone di Battisti che cantate quando siete felici. Possibilmente quando siete felici, perché devo dire, sul triste Battisti ne va forte, però qualcosa che abbia voglia di, come dire, rallegrare le orecchie di uno un venerdì pomeriggio. 349-238-6666. Intanto sul profilo Facebook Pavonia Pavo, questa non può essere il suo nome, sarà un account inventato. Dolcemente Viaggiare, che non si chiama Dolcemente Viaggiare, però ha un altro titolo. Dolcemente si chiama Sì Viaggiare. Nicole, Il Tempo di Morire, che per tutti è Motocicletta. E poi ancora, Anche per me è Motocicletta, se non la scrivono con 3 A non sono contenti. Anche per te, Anche per te è il titolo di una canzone? O Anche per te, ok. E poi qualcuno addirittura giustamente ha pubblicato sul profilo Facebook alcuni brani. Mi abbassi un attimo per piacere la base, faccio una cosa che non si dovrebbe fare, Pietro, lo so, ma non te la prendere. Questa da YouTube dice chiamarsi Elena No. Poi ce n'è un'altra, stai lì, non mettere la base, che invece è molto più conosciuta. Questa è la versione di Sanremo del 1969 di Un'avventura. Faccio un po' il DJ anni 80. Benissimo, benvenuti, questo è Lucio Battisti. Sono le 16:12, questa è Radio 24. Cominciamo con la storia di Fiorenza. Ok, la finisco qui, poi far ripartire la base. Ripeto a tutti, la vostra canzone di Lucio Battisti già arrivano. La luce dell'est, Innamorato sempre di più, Motocicletta 10 HP tutta cromata, Emozioni, Nastro rosa, Insieme a te sto bene. Ciao Sergio. Le 16:12, state lì perché qui non si parla solo delle canzoni di Battisti. Si parla di una donna, che poi ci racconterà meglio come è avvenuto, che un giorno non solo ha visto Lucio Battisti, ma si è fatta accompagnare cantando un suo pezzo. Sono passati 37 anni, il ricordo però è preciso, nitido. Era il 1976, ero una ragazzina di 17 anni. A quei tempi mio fratello Bruno gestiva un ristorante frequentato da avventori provenienti prevalentemente da Milano e dalla Brianza. Bruno si dilettava a suonare la chitarra con un repertorio di cabaret che andava dai Gufi a Gaber. Strinse amicizia con un affezionato cliente, Renato, che viveva a Molteno. Era un ristorante, alla sera si faceva un po' di cabaret, sai, quelle cose che usavano in quegli anni. Molteno, questa è la parola chiave di questa storia. Renato, l'amico di mio fratello, abitava vicinissimo a Lucio Battisti. Ah, ho trascurato di dire che pure io cantavo al ristorante, riscuotendo un discreto successo. Naturalmente Bruno idolatrava Battisti, come tantissime persone in quegli anni. E quindi cominciò a martellare Renato, chiedendogli quando me lo fai conoscere, quando me lo fai conoscere, quando me lo fai conoscere. Per me ancora oggi rimane un mistero come Renato non si sia dileguato nella nebbia brianzola, esaurito da tanta insistenza. E poi, una domenica pomeriggio, accadde. Renato organizzò l'incontro e quel giorno, con mio fratello, casualmente c'ero anch'io. Partimmo alla volta di Molteno emozionatissimi. Giungemmo alla casa di Renato che, dopo un caffè, ci accompagnò alla villa vicina, quella di Lucio. Ci fece entrare la moglie, una signora garbata e silenziosa. Per casa trotterellava un cosino di 2 o 3 anni riccioluto come suo papà. Seduto su un divano ci aspettava lui, Lucio Battisti. Gli uomini cominciarono a chiacchierare di musica soprattutto. Mio fratello Bruno osò suonare e cantare un brano scritto con un amico che il nostro ospite apprezzò, donando alcuni oculati suggerimenti. E poi successe. Renato disse, rivolto a Lucio: «Ma sai che bella voce ha questa ragazza? Fiore, canta qualcosa!» Io, cantare a casa di Battisti. Io avevo 17 anni. All'improvviso mi sento le orecchie in fiamme e ho un tremendo attacco di pipì nervosa. Lucio però mi guarda e, sorridendo, mi chiede: «Che cosa vuoi cantare?» «Cosa voglio cantare? Niente, non voglio cantare niente, voglio solo teletrasportarmi a casa mia. Voglio la mamma, ma invece Renato ancora. Fiori rosa, fiori di pescola, fa benissimo!» E Lucio inizia a suonare. Cortese, ma assolutamente distaccato. Non freddo, non maleducato, ma assolutamente non espansivo. Ecco, questa è la verità. Io inizio a cantare mentre Lucio suona. E io allora non mi fermo e la canto tutta, fino alla fine. È stato bellissimo e avrei voluto non finisse mai. Mi fece complimenti e poi continuò a suonare e a cantare lui, e cantò in anteprima i brani del suo album che sarebbe uscito pochi mesi dopo, Io, Tu, Noi Tutti. Ascoltai per la prima volta Ancora Tu, che resterà per sempre la canzone tra le sue che preferisco, e poi Si Viaggiare e Neanche un minuto di non amore, meravigliosa già al primo ascolto, e altre canzoni ancora tutto il pomeriggio. Quella domenica pomeriggio Lucio Battisti è stato molto generoso. Non un grande affabulatore certamente, ma un uomo riservato che ha saputo regalare a 2 ragazzi una domenica pomeriggio indimenticabile. Per una lira io vendo tutti i sogni miei. Per una lira ci metto sopra pure lei. Basta ricordare di non amare, di non amare. Amico caro, se c'è qualcosa che non va, se ho chiesto troppo, tu dammi pure la metà. Poi uno dice sempre male delle domeniche pomeriggio. Ecco, adesso probabilmente fate fatica ad immaginarlo, perché è venerdì, sono le 4:18 in punto, e quindi immaginarsi tra 2 giorni a quest'ora probabilmente è più difficile che immaginarsi tra 2 anni in questo giorno. E allora provate a pensare alla domenica pomeriggio passata, o a quella prima. Pensate ad una domenica pomeriggio qualunque. Non la domenica pomeriggio di un weekend figo, uno che avete passato al mare o in viaggio o in compagnia di una persona strepitosa. No, no, no. Ah, e non valgono nemmeno le domeniche pomeriggio dei periodi di vacanza, perché quelle non contano come domenica. No, fate una cosa, pensate ad una domenica pomeriggio trascorsa a casa. Di quelle domeniche che la mattina è ancora festa. Se c'è il sole poi la vita sembra più semplice. Il pranzo è splendido e va tutto bene fino alle 2, 2:30. Poi, senza nemmeno che te ne sei accorto, sono già le 3 del pomeriggio. E lì inizi a sentire che la giornata sta scivolando verso qualcosa che non ti piacerà. Ecco, ora paragonate una qualunque di quelle domeniche pomeriggio con quella passata da Fiorenza 37 anni fa a Molteno. Quanti di noi hanno avuto la fortuna di incontrare il proprio idolo? Non parlo di un incontro veloce, di quegli incontri fatti di uno «Ehi, sei grande, ti seguo sempre!» oppure «Ti spiace se facciamo una foto?» No, no, no, io parlo proprio di un incontro vero e proprio, in cui due persone si siedono a un tavolo o almeno hanno una mezz'ora di tempo per farsi 4 chiacchiere. Quanti hanno avuto questa fortuna? Ok, ora che ci siamo contati, alziamo ancora un po' di più l'asticella. Quanti hanno avuto la possibilità di mostrare al proprio idolo quanto fossero bravi nel fare la stessa cosa per la quale l'idolo è diventato idolo? Quanti hanno mostrato a Zidane quanto fossero bravi a giocare a calcio? Quanti hanno fatto un monologo commovente davanti a Robert De Niro? Quanti hanno cucinato e fatto assaggiare la propria migliore ricetta davanti a Carlo Cracco, per dirne uno? Ok, mi fermo qua perché è chiaro che non c'è gara. Fiorenza batte tutti, in ogni campo. Primo, perché Lucio Battisti era notoriamente una persona molto schiva e discreta. Secondo, perché lei ha cantato mentre lui la accompagnava. E terzo, perché in anteprima, dalla sua voce, da quella di Battisti, in una sorta di mini concerto privato, lei ha sentito alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica leggera. Di questa storia però c'è un dettaglio che potrebbe sfuggire, ma è giusto che non sfugga, secondo me. Quando lei, il fratello e l'amico arrivano a casa di Battisti, il figlioletto gioca in giro per la casa, lui è seduto sul divano. Ecco, che cosa vi fa venire in mente questa immagine? A me fa venire in mente che anche per Lucio Battisti le domeniche pomeriggio non erano tutta sta gran roba e che anche a lui capitava di annoiarsi e immalinconirsi in quelle domeniche pomeriggio. E quindi se Battisti ha reso indimenticabile quella domenica pomeriggio a Fiorenza, Fiorenza ha reso un po' meno malinconica una domenica pomeriggio a Lucio Battisti. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Non è una che ha tantissime foto di lei, e lo si capisce perché ci ha mandato una foto tagliata, ma tagliata proprio male, nel senso che si vede che è appoggiata a un'altra persona, chiaramente, con la spalla a sinistra, ma soprattutto c'ha una mano che spunta dal nulla appoggiata alla sua spalla. Credo sia estate, perché è più che abbronzata, è bella rossa, ha degli splendidi occhi azzurri, degli occhiali con una montatura leggerissima e dei capelli biondi. Pronto, Fiorenza? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Sto bene, un po' emozionato devo dire. Guarda, perché, insomma, tanto noi siamo qui in 18 oggi, c'è tutta la scuola Holden di là e quindi siamo praticamente tra amici. Fiorenza, di chi è sta mano sulla tua spalla? È inquietante. È un amico in vacanza e proprio come dici tu, non mi faccio fotografare molto volentieri. È giusto se ti costringe un altro bloccandoti con la mano, fai scattare la foto. Sì. Lo capisco. Senti, Fiorenza, davvero non ci capita spesso di raccontare storie in cui una persona ha conosciuto una leggenda ufficialmente della musica italiana come Battisti, che ha suonato al pianoforte, giusto? Era? O alla chitarra? Con la chitarra, una sua canzone che tu hai cantato. Sì, caro. Che era, che era Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Sì. Mi fai i primi 30 secondi di Fiori Rosa, Fiori di Pesco? Mamma mia. Beh, l'hai cantata davanti a Battisti, vuoi non cantare davanti a me? Sì. Che sono era nulla. Incosciente. Era incosciente. Certo. Provo, eh? Vai. Allora. Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu. Fiori nuovi, stasera esco, ho un anno di più. Beh, ma è anche un vibrato da X Factor, proprio. È una roba. Sta roba orribile, degli applausi. Ringrazio Pietro Lacorte per averla mandata. Tuo fratello, che cosa ricorda? Nel senso, Fiorenza, io immagino che questa sia una storia che tu tiri fuori nei momenti proprio quando tra amici davanti attorno a una pizza uno dice: oh, io ero a vedere la finale di Champions. Certamente. Oh, ragazzi, io vi batto tutti. Quante volte l'hai raccontata questa storia? Un po' di volte, effettivamente. Nel senso che la gente già ti dice: oh, Fiorenza, basta con la storia di Battisti, l'abbiamo capita. No, la doso al momento giusto, quando insomma devo sistemare le cose. Scusami, stavi dicendo la zitella? Come? Scusami, prima stavi dicendo la zitella, no? Ho capito male io. No, non ho detto la zitella. Non sei zitella, sei sposata? No, sono sposata. Sei sposata. E ho una bellissima figlia di 20 anni che si chiama Lara e oggi compie 20 anni, quindi mi avete fatto un regalo meraviglioso. Guarda, davvero, un applauso, proprio giusto per rimanere in mood orribile, un applauso di quelli che ci hanno dato prima Pietro Lacorte. A posto così. Fiorenza, tu continui a cantare? Beh, con gli amici, insomma, capita, sì, con gli amici. Ma con gli amici cosa vuol dire? Che tirate fuori la chitarra e cantate, semplicemente? Ma sì, abbiamo anche l'impianto con le basi, sai, di karaoke, quelle cose, insomma, sì. Davvero fate il karaoke? Sì. Cioè, quindi voi siete, adesso dalla foto, io dico, tu insomma, porti benissimo i tuoi anni, avrai attorno ai 45 anni più o meno, giusto? No, ne ho 54. Fa niente, va bene così. Quindi immagino dei signori di 50 anni intorno a un tavolo che attaccano un karaoke. Cioè, lo attaccate alla televisione? No, abbiamo lo schermo. Avete lo schermo, certo, perdo, scemo io a non pensarlo. Se uno al karaoke c'ha lo schermo. E cosa cantate? Roba italiana? Prevalentemente cose italiane, sì, tipo? Ma poi possiamo partecipare anche gli amici, beh, non so, Fiorella Mannoia, qualcosa anche di Mina ogni tanto quando siamo... E poi lui, magari... e poi il nostro Battisti, ovviamente. E certamente il nostro Battisti. Senti, lui, come dicevi, era risaputo, insomma, era una persona molto discreta, giusto? Sì. Quindi sì. È stato, come dire, possiamo dire che è stata una domenica pomeriggio anomala per Battisti, nel senso che si è trovato sti tre folli in casa, che continuavano, oh, lui sa cantare, lei sa cantare benissimo, e lui si è prestato. Guarda, a sta roba. Matteo, io penso che il nostro amico Renato abbia fatto da tramite, insomma, evidentemente lui aveva una buona amicizia con questo signore, questo ragazzo allora, e che insomma ci ha fatto un po' da lasciapassare, ecco. È successo così. Cioè, aveva preparato la strada. Senti, Lucio, sì. Fammi un piacere. C'ho sto tizio da cui vado al ristorante che mi sta asciugando. Ma tu pensa, tra l'altro, quante persone Battisti sarà trovato dicendo. Esatto. Mi auguro che non tutte le sue domeniche pomeriggio siano finite in quel modo lì. Non ti sei portato. Cioè, non hai portato via un gadget da casa di Battisti, che sai, un asciugamano del bagno, un posacenere. No, dicevo come ricordo, non rubare. Poi ero molto giovane, comunque 17 anni. Ero piccola, poco sgamata, insomma sono rimasta emozionata dall'inizio alla fine, insomma un po' in trance, se devo dire la verità. Fiorenza, è col termine poco sgamata che ti ringrazio moltissimo e grazie per la storia e in bocca al lupo per tutto, soprattutto a tua figlia, auguri a tua figlia. Sì, tanti auguri Lara. Va benissimo, grazie a voi. Ciao. Ciao Fiorenza, grazie. 349-238-6666. A proposito di persone famose con cui si è fatto qualcosa, mi scrivono: io ho cucinato per Luciano Tona e Paolo Lopriore insieme. Io speravo che Margherita mi cercasse chi fossero Luciano Tona e Paolo Lo Priore, però io lo do per scontato che sono due chef stellati, probabilmente. Sono due chef stellati. Sì, grazie per avermelo detto, ragazzi. Ora sto molto meglio, ringrazio tutta la scuola Holden di là. La luce dell'est, non posso avere gli occhi lucidi mentre sto guidando un camion, mi scrivono, probabilmente sono patiti di Battisti. Come può uno scoglio, che non è come può uno scoglio, diciamo prima è emozioni. No, non è emozioni, è io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Le bionde trecce, e poi mi scrive qualcuno che mi dice... Ma dai Matteo, ma quello della Domenica Pome già Domenica Pome, quello della Domenica Pome è uno spleen da adolescenti. Io ho fatto una figura orribile non sapendo cosa fosse lo spleen, grazie a Margherita che dice lo spleen rappresenta la tristezza meditativa e la malinconia. E nonostante la tristezza meditativa e la malinconia, abbiamo finito anche questa puntata. Lascio la linea a Oscar Giannino per una bella chiusura di settimana del venerdì. Io ringrazio di nuovo Silvia che ha dato la voce e tutti gli studenti che arrivano da Torino. Viva la scuola Holden, hashtag... non lo so, hashtag niente. Sono le 16:29 minuti. Scaricate il podcast di questo programma che trovate sul sito di Radio 24 o su iTunes in abbonamento gratuito. Ma soprattutto raccontate storie. Raccontatele, scrivetele e inviatele a voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Pietro Lacorte, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Fiorenza perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Emanuele, vivo a Roma, la storia di lunedì è la mia e parla di quando mi sono ritirato dai campi di baseball. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.